Allora, la rubrica del giovedì ci porta in una sede espositiva che a Bologna ha già visto diverse attenzioni con una grande non solo classicità, ma in questo caso con il contemporaneo. Protagonisti è uno zoo, quindi sono animali. La conferenza stampa si è tenuta ieri. Questi animali sono pieni di umanità e di vita, oltretutto. Con Viola siamo partiti per ottenere più interviste possibili e così è stato. Non solo il curatore, ma anche diversi artisti saranno ai microfoni di Radio Città Fujiko. Quindi Viola, noi siamo partiti e ovviamente abbiamo iniziato a fare delle supposizioni. E invece... Esatto, noi proprio... anche dal titolo, io da fan di Harry Potter mi aspettavo... Tu sei Harry Potter. Esatto. Mi aspettavo qualcosa, più oddio, gli ippogrifi, gli unicorni, oppure appunto anche figure mitologiche, animali strani. E invece siamo arrivati ed erano animali in realtà comuni, animali semplicissimi, però rappresentati in maniera diversa. Un contenuto importante che ha stupito la nostra immaginazione e pensate come riuscire a stupire tutto ciò anche con una punta di denuncia. Un contenuto che dà un'estetica particolare e trovare uno zoo vero e proprio che comunica con noi, oltre che con spettacolarità e non certo smaccata. Ho apprezzato molto l'assenza totale di supporti tecnologici, anzi vi è un motivo dialogico ulteriore con il visitatore che porterà un interrogativo nel rapporto con la società attraverso queste figure di un'estetica molto molto affascinante. E io resto subito affascinato da cosa? Dalle giraffe. Ovviamente. Anche per motivi di centimetri, questi animali che vivono, oltre che essere prede, vivono delle sofferenze incredibili, perché tutto è incredibilmente basso, no? E le loro spaccate per riuscire ad abbeverarsi, le loro fughe dai felini affamati, per cui insomma le giraffe, seppur molto affascinanti, non sempre hanno vita facile nella savana, ma possono comunicare tante cose e interpretare anche alcuni personaggi famosissimi. Ne abbiamo parlato con chi? Sandro Gorra, che è l'artista appunto che ha la sezione. Poi parleremo anche della suddivisione in sezione, che è importante per la mostra Animali Fantastici. Sentiamo Sandro Gorra e queste giraffe meravigliose. Animali fantastici che arrivano a Bologna, iniziamo quindi magari sezione per sezione, ne daremo un dettaglio e siamo con l'artista Sandro Gorra, che si è occupato di animali a me molto cari, di una notevole statura, fra l'altro stiamo parlando di giraffe e siamo in una sezione molto particolare. Perché questa fascinazione? Perché le giraffe, per la loro bellezza, altezza e, ahimè, vita limitata, nel senso che stanno scomparendo, assomigliano molto ai desideri degli uomini, che vorrebbero stare in alto con tutte le loro patacche d'arrivo. Ma come le ottengono? Poi hanno il terrore di perdersele. Infatti le mie giraffe hanno le macchie che volano via. Infatti vedo che c'è questo aspetto di motilità molto forte, sì, per le rappresentazioni da cui siamo così avvolti. L'aspetto materico? L'aspetto materico, le giraffe sono fatte in 100 modi. Ci sono quelle in bronzo, come lei, Greta, che è una ballerina. C'è Alice, che invece è fatta in resina, la quale sta cercando le ultime risorse d'acqua, che purtroppo ce ne sono poche, e allora andando sempre più giù con la testa le macchie gli vanno sulla testa, mentre invece lei è Marilyn, è una giraffa sempre fatta in resina pure, che ha ottenuto grandi successi e quindi è sinistrata a prendere una boccata d'aria. E l'ultima di là è la Lia, che vola, la quale è la giraffa volante. Un giorno, passando davanti a una vetrina, vide che le macchie che perdeva facevano una forma un po' alare e capì, leggermente alzando gli zoccoli, che si poteva alzare da terra, e da lì cominciò a decollare. Bella, non voglio svelare nulla, ma la giraffa Marilyn ha la citazione appunto di volar via anche nel vestito della Marilyn, con, esatto, le sue macchie. Esatto, lei ha le macchie che sono diventate in seta per via della sua trasformazione da donna a donna manager, e quindi è anche un auspicio per tutte le ragazze che possano arrivare veramente in alto. Io la ringrazio tantissimo per questa conversazione. Grazie. Buona giornata. Grazie a voi, grazie. colonna sonora ho voluto aggiungere anch'io un animale fantastico, Herbie Hancock, soprannominato per i suoi cambiamenti di stile il camaleonte. Poi il brano The Chameleon che ascolteremo, che ha portato questo nickname al grande artista Herbie Hancock. Qui stiamo ascoltando Butterfly, quindi restiamo sempre in tema di animali fantastici. Giraffa in difficoltà vuole dissetarsi e perde le macchie che scivolano verso il capo dopo una clamorosa spaccata per avvicinarsi a terra. Questa è l'immagine della difficoltà. La giraffa Marilyn è quella che mi ha affascinato di più, tra l'altro rappresentata in maniera molto particolare. Come la immaginiamo Marilyn Monroe dal film? Beh, col vestito, il vestito che si alza. Infatti quella giraffa lì aveva le macchie, c'era del vento sotto con delle macchie che si staccavano e volavano verso l'alto come il suo vestito. E infatti bellissimo. Il lavoro portato dall'artista Sandro Gorra è stato portato su un'installazione con una grata, avvicinandosi da sotto il soffio d'aria alza questo vestito a macchie della giraffa Marilyn, chiara citazione di quando la moglie è in vacanza di Marilyn Monroe, insomma un'icona che viene così rappresentato. Grazie Elisa che scrive: Willy, anche tu sei un po' camaleonte e tu Elisa sei un po' giraffa, eh? Saluto Elisa Iacobucci, redattrice di Radio Città Fujiko, e quando ho avuto la fortuna di lavorare con lei appunto ci si presentava la vostra coppia di lunghi 4 metri in due, per cui ti consiglio la visita a questa mostra, ne resterai rapita Elisa. Conoscendo anche la tua fantasia, la bellezza appunto dell'estetica che è molto affascinante, per cui insomma una mostra che stupisce, che ti aspetti in determinati contenuti che tra l'altro ci sono, ma che sono riproposti con progetto di ricerca, per cui insomma un contemporaneo non certo stereotipato, tutt'altro, anzi onore al merito, alla co-curatela e al lavoro portato dai due curatori. Infatti abbiamo sentito, a proposito di percorso in mostra, uno dei curatori, Viola. Esatto, Gianluca Marziani. Lavoro che è suddiviso in sezioni che non sono per felini, pesci, volatili, no, assolutamente, è un lavoro che è portato per artista, ma nello stesso tempo fra artisti, un dialogo di continuità. Abbiamo voluto sentire e saperne di più dal curatore Gianluca Marziani. Siamo con Gianluca Marziani, co-curatore dell'esposizione che c'è a Palazzo Albergati. Allora intanto, questo enorme zoo fantastico, di quante opere composto? In questa tappa noi abbiamo raccolto insieme 23 artisti italiani con una scelta diciamo anche abbastanza omogenea, sono circa 110 opere in mostra, ma soprattutto quello che ci interessava era avere una visione d'insieme molto omogenea e che potesse ridare di questo progetto all'interno di Palazzo Albergati l'idea di un percorso vero e proprio, una sorta di montaggio tra le sale dove abbiamo cercato di giocare molto sulle narrazioni prodotte dalle opere e dagli artisti, quindi sulla capacità di ogni artista di evocare un pezzo di quello che è diciamo il nostro contenuto catalogo della mostra, perché volevamo che fosse un progetto molto ben allineato anche su una visione del mondo contemporanea, quindi dove, seguendo anche quelle che sono visioni oggi di tanta filosofia antispecista in generale, insomma, che sta rivedendo un po' tutte le posizioni gerarchiche tra uomo e mondo animale, a cui appartiene appunto l'uomo stesso, abbiamo cercato quasi di inventarci una fiaba in cui il dialogo finalmente è alla pari, in cui ci confrontiamo guardandoci negli occhi, in cui tutto è molto ben posizionato per quasi idealmente creare questo dialogo tra noi e le opere, questi animali fantastici prodotti dagli artisti. E quindi la volontà è di immergere il pubblico, e dico immergere proprio perché c'è l'intenzione con un progetto di questo tipo di essere immersivi ma attraverso le opere, che è un passaggio che credo sia oggi importante, quanto spesso si tende a fare abuso della tecnologia nei progetti espositivi, togliendo magari valore a dei contenuti specifici. Invece credo si possa far dialogare, come abbiamo fatto, con la qualità degli allestimenti, con dei passaggi più, diciamo, che apparentemente fuoriescono dal gruppo degli artisti, ma che in realtà diventano un environment, un contesto, una sorta di luogo in cui queste opere vivono e convivono, per cui ecco, uscire un po' anche dall'ambiente asettico in questo caso specifico, perché abbiamo creduto che questo tipo di lavoro avesse anche bisogno di un ambiente sensoriale per il pubblico, per stimolare anche il modo di guardare le opere, di camminare attorno alle opere. Quindi è davvero un super zoo, come abbiamo chiamato, partendo un po' dall'idea della parola greca, quindi dall'idea dell'essere vivente, lo zoo, e quindi uscendo proprio, saltando tutta la vecchia logica del luogo con le gabbie, che è lo zoo come un po' tutti lo conosciamo, il giardino zoologico, e quindi trasformare un museo in un giardino senza gabbie, e quindi anche nel modo di mettere le opere non abbiamo utilizzato distanziatori o elementi di separazione, perché volevamo che tutto fosse molto convivente tra noi, certo, che entravamo e loro che in qualche modo sono i padroni di casa in questo caso. Sì, infatti è assolutamente originale, non c'è l'aspetto di riferimenti per specie o riferimenti con determinati miti, anche se in realtà ci sono, ma non sono quelli protagonisti. Io ho notato un aspetto di denuncia, di dialogo, di una sezione che, nonostante la eterogeneità, è in dialogo con l'altra, per cui insomma un ottimo lavoro e grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Anger. Up Your Hanks Up dal disco Man Child del Camaleonte di Herbie Hancock per Columbia Record. Mi hanno detto oggi sei molto funky, do conferma, questa è la svolta jazz funk del Camaleonte di Herbie Hancock. Il titolo ha un'attinenza con la micro sensazione nell'approcciarsi alla mostra, noi totalmente e a nostra insaputa, già dal titolo, dai colori di copertina e di presentazione per l'invito, un pochettino ci si aspettava di tornar bambini. Man Child, il titolo di questo disco appunto che sto proponendo. Beh, ovviamente la mostra è per tutte e per tutti, per tutte le età, per famiglie, per single, per chi più vi aggrada, è assolutamente, ma non è orientata unicamente per una specificità, se non che per capire, andare in approfondimento, oltre che per la bellezza nell'immaginazione, anche per avere una concretezza grazie agli artisti portati a Palazzo Albergati, come ho detto, per la denuncia, per un motivo di conversazione anche nell'intrattenimento. Beh, la giraffa Marilyn ne è la rappresentazione, almeno così l'ho eletta. Adesso noi non vogliamo svelare troppo, è assolutamente, anche perché siete voi che poi avrete modo fino all'8 maggio di avvicinarvi allo zoo fantastico di Palazzo Albergati, però abbiamo deciso di portare sia io che Viola un'opera a descrizione di questa esposizione magica. Improvvisamente mi ritrovo davanti a un enorme primate, un gorilla, e fatto alla perfezione, sulla schiena riporta le bandiere degli Stati Uniti d'America, della NATO e dell'Unione Europea, quindi già ne resto, oltre che per l'estetica, la bellezza, vengo attratto da questo primate immenso fatto perfettamente. Non mi accorgo nemmeno che c'è un sentore strano all'interno di questa sala. Viola, più attenta, mi dice: ma non senti anche tu questo profumo di Big Bubble di gomme da masticare? Perché infatti questo gorilla tutto rosa è fatto interamente di gomme da masticare, di Big Bubble. Infatti dicevo: ma io ho presente questo odore. Ma chi è che sta mangiando una Ma io ho presente questo odore qua. Poi ho letto la descrizione dei materiali, c'è scritto chewing gum. E infatti poi sono stati trattati, ovviamente, sì, certo. Perché abbiano una consistenza nel permettere questa scultura. Una scultura in chewing gum. Immobile, osserva, ha questa espressione accigliata, gigantesco. Sono questi giganti che in questo momento sono in gravissima difficoltà, anche se non lo vogliono ammettere. Quindi una forza statica, il consumismo rappresentato da questo aspetto per così dire frivolo della chewing gum, e allo stesso tempo la grande estensione dell'opera, ma l'aspetto accigliato, il pensiero e questa staticità che ne dà un motivo di riflessione molto profondo. Anche questa è un'opera che ha colpito l'immaginario e non solo nell'esposizione Animali Fantastici. Abbiamo un ultimo, last but not least si dice, no? Un altro artista che in questo caso, ecco, per quanto riguarda, perché è presente ogni aspetto, per tutto ciò che può essere rappresentazione e animali, in questo caso abbiamo anche il mito, però questo coniglietto strano, sì. Ci puoi dire qualcosa di più, Viola? Esatto, c'era questo coniglietto, leggo, una scultura in ceramica, anche non tanto grande, piccolino, che ha delle caratteristiche molto anche cartunesche, sì. Molto tutto blu, tutto carino, però rappresenta una figura un pochettino inquietante. Sentiamo Massimo Giacon per la conversazione che ha tenuto a proposito della sezione in cui è rappresentata questa figura. Procediamo alla nostra conversazione con gli Animali Fantastici e siamo con Massimo Giacon, artista. La mia è una, diciamo, un'installazione multipla che parte da una mia ceramica, perché inizialmente Gianluca Marziani voleva esporre alcune delle mie ceramiche, perché io è da anni che faccio queste ceramiche in forma di animali, ma abbastanza oscure, no? E io ho invece ribattuto dicendo: ma facciamo una cosa appositamente per lo spazio, no? Pensata, no? Allora utilizziamo questa mia ceramica, che è un coniglio che sembra una specie di Bugs Bunny, con questa testa, con questo volto da teschio nero, che inizialmente l'avevo pensato come una specie di traghettatore delle anime nell'aldilà, no? Ah, un caronte. È un caronte, però un caronte allo stesso tempo benigno, perché sì, cioè, non si sa dove ti porta, no? Cioè, io, non credendo molto nell'aldilà, io penso a una cosa abbastanza astratta. E contornato appunto da queste forme di animali, anche questi con la faccia da teschio, che sono una specie di universo di anime, possono essere anime, animali, infatti animale è una parola che nella sua radice contiene la parola anima. E quindi potrebbero essere o le anime di tutti quanti gli animali defunti, e lui diventa il traghettatore del nostro mondo animale. Infatti all'inizio volevo intitolare questa opera Natura Morta, no? Però poi dopo forse era troppo anche negativa. Invece all'interno di questo progetto, di queste due stanze in cui c'è la mia opera e quella di Fulvio Di Piazza, che si chiama We Are Worlds, noi siamo mondi, e in effetti è una specie di introduzione a un altro mondo ipotetico possibile, che essendo un mondo che ha un po' a che fare con quello che sono le mie radici, cioè quelle del cartoon, del fumetto, sì, esplicita l'immagine, misto a quello del mondo del design, che sono due mondi a cui appartengo. Diciamo che l'aldilà potrebbe essere anche divertente. Ah, in questo caso assolutamente. Grazie per l'ottimismo, che accolgo con un grande abbraccio, e benvenuto a Bologna. Grazie, grazie. Il ruggito, il rumore delle frasche che in questa ultima parte ha portato un po' di difficoltà al montaggio a Viola. Grazie intanto per il lavoro di creazione e la produzione di contenuti per tutte le rubriche del Breakfast Club. Questa intervista ti ha un po' messo in difficoltà, forse, con i rumori di sottofondo. No, no, dai. Ci stanno, visto che è una colonna, esatto, sonora, sì, sì, naturale. Esatto. Bill Summers, Harvey Mason alla batteria, Benny Maupin ai fiati, la scrittura per questo gruppo che Herbie Hancock chiamerà i cacciatori di teste, quindi restiamo in questo aspetto di giungla, se vogliamo, è il camaleonte. Herbie Hancock scriverà questo brano, The Chameleon, che poi lo porterà a essere così soprannominato. Il disco e la formazione Head Hunters avrà vita propria anche in seguito, e resterà il camaleonte come iconografia per Herbie Hancock. E nella nostra mostra, appunto, facciamo una sezione dedicata ai camaleonti, che sono animali fantastici. Esatto, del resto, sì, sì, no? Bellissimi. Questa capacità di cambiare colore, esatto, affascinante. La mostra è aperta al pubblico da oggi, 7 dicembre 2023, e chiuderà il 5 maggio 2024 a Palazzo Albergati a Bologna. Assunta oggi e quindi oggi avremo un'altra conferenza stampa di presentazione Bologna per l'arte. Come ben sapete, ogni anno al termine dell'anno corrente andremo a Palazzo d'Accursio per conoscere l'artista nell'Ottocento bolognese. Pronta per un'altra conferenza? Pronta, stampa. Prontissima. E quindi anche giovedì prossimo, eh? Ok. Se mi inviti vengo. Ma come no? Tastiera al Muger Bianco che ci porterà alla pubblicità, si rientra con un last minute dedicato al cinema, di cui tu sei una grande appassionata, Viola. Sì, sì. Porretta Film Festival, 22esima edizione, la proiezione in serata al Cinema Cursal verrà anticipata dal regista del film Il vento soffia dove vuole, e quindi avremo modo di conoscere un'anticipazione per la proiezione al Porretta Film Festival dopo la pubblicità nel last minute di oggi. Un po' di musica, poi si torna insieme con la prima colazione in diretta, il Breakfast Club. Intanto grazie Viola. Grazie a te. A giovedì prossimo. A giovedì. Ciao, ciao.